Gianni poco fa ha detto una cosa giusta, perché io non ho mai venduto una radio senza il microfono e il cavo di alimentazione. A me è capitato, e anche a Gianni, di comprare radio usate, ma non c'ho il microfono. E con cosa va vendo io? Con l'uccello? Cioè, fammi capire, se una radio è nata col microfono, me la devi dare col microfono? Oppure qualcuno è, non ho il cavo di alimentazione, e con cosa alimentarvi? È con un cavo normale, ma non ho capito, non si tiene la roba così. Io ho roba datata, vintage, che se tu la vedi, Gianni lo sa come tratto le radio io, le cose io, ho un cassetto con tutte le cose originali, anche manuali, i manuali di 40 anni fa, io ce li ho delle radio. Non vendo una radio senza il suo manuale, senza il suo microfono originale, il cavetto originale. Gianni Capridua, le devo portare una Alan 48, mi ha detto, ma la staffa ce l'hai di quella radio? Certo che ce l'ho, se è nata con la staffa ti devo dare anche la staffa, se è nata col microfono originale te lo devo dare anche col microfono originale. Ma che discorsi fai? Cazzo, mi dai una radio senza microfono? E infatti, io dovrei dare una volta senza batteria, fate tanto. Avanti già. Ah no, c'è anche Eugenio che è in parcheggio. Avanti Eugenio. No, si è allontanato Eugenio, vai già. Vediamo un po' chi era rimasto. C'era Natalino anche. Natalino non risponde, no, mi riprendo io. Sì, c'è gente che praticamente o gli piace il microfono, se lo tiene e dice che non ce l'ha, oppure non c'è la staffa, oppure non c'è il cavetto. Se la radio me la dai, completa, non me la dai senza cavetto dentro, e la ridò cose in più, molte volte ci ho i pezzi, prendete un'altra radio uguale e gli regalo, capito? Poi c'è gente che vuole fare affari, ma sporchi però, sporchi, perché una cosa si dà, se si dà, si dà. Tu pensa che Antonio Riserva mi ha chiesto l'altro giorno se c'avevo l'attacco dell'Assidium, della PDC-800, ne avevo uno, completo, ti sto dicendo che c'era gommino e anche l'affare di... c'era tutto qua. Beh, sono andato a prenderlo, me l'ho messo in tasca, come me l'ho tolto, che cosa, ho perso il coso, ho perso la, diciamo, quella burchia che c'è dentro in ottone. Ma senza quella burchia non la puoi attaccare, mi pare che ce l'ho io quel cavetto lì. No, ma non il cavetto, no, la burchia che c'è dentro l'attacco, l'attacco è nuovo, e ho perso quello lì, è la gomma, ce l'aveva Luca della PLC 800. Se sto cercando dove posso averla piccata, ho fatto mille pensieri, perché non volevo dare completo, gliela sto regalando, non è che, cioè, non ci voglio guadagnare nulla, capito? Ma non mi piace dare la completa, la cosa, se non la do completa. Ma senza quella burchia d'ottone non funziona, perché quella burchia d'ottone va messa in mezzo dove tu poi vai a entrare, quello è un isolatore, dove tu vuoi entrare il bullone per avvitare il mollone di sopra. Buonasera. Lo so. Ciao Tino. Ciao Tino. Buonasera a tutti. Ah, un po' di cibo sul vento, la teniamo, se puoi. Via, un attimo. Ciao, arriva. Ciao dopo. Ciao, ciao. Via. Quindi Tony l'hai beccato la fase di Saturnetto? Sono detto, mio cugino me lo sta spedendo da lunedì. Va bene, va bene. 200 euro. Questo è suo, 200 euro, io chi lo dà di più, secondo me ci sta marciando. Perché quello è sorpreso, poi hanno detto che sta prendendo quota, perché stanno sparendo e quindi li stanno prendendo di più per quello. Chi li vende 300, chi 250, chi 480, addirittura l'ho visto io, 480 euro. Ok, già, ma comunque... Comunque, ma a parte questo discorso qua, ma domani cosa penso? Pioggia o sole? Non ho guardato le previsioni, sinceramente. Non lo so. Io tanto la roba l'ho ritirata, cioè la stessa l'ho ritirata, quindi problemi non ne ho. Vabbè, dopo tre giorni guardiamo il tempo per com'è. No, peraltro, perché sennò quel mobile che sto iniziando a fare, me lo metto dentro, non so mai, pensavo, sennò è un casino, che se tira vento o pioggia è un casino. Stai facendo il mobile per la stazione? No, è una tipo scarpiera, dai, che ho troppe scarpe, non so più. Se apri la bancarella, vedere, boh. scarpiera e l'ho messa fuori dal terrazzo, così almeno è una cosa separata dalla casa. Quando voglio vado, apro lo sportello e mi rivolto i vicini. No, qua c'ho dei piccoli bombinetti che si me le scatole stanno male, dai, le scatole, delle piene le scatole, però sono già pubbliche come Dio comanda, bello grande. La socia diciamo di larghezza 90 cm, alto 120, profondità 30. È già abbastanza male. Niente, me l'ho già fatto, l'ho scritto con la penna, mi sono disegnato quanto voleva qua che non mi dà fastidio, col metro, me l'ho associato la penna, tutti i pannelli, tu quando sono andato lì come, ho preso un foglio enorme, una grossa da 2,5 cm, me l'ho fatto tagliare a misura, me l'ho sopportato qui e però che non la sto costruendo. È fatto bene. Che farà se fa per 13 aici? E qualche uomo mi ha detto, se lo faccio che mi ha comprato, no, come lo voglio io, quale misura che ho preso per il posto che ho, mi va bene così, lo faccio io, sono soddisfatto che l'ho fatto io, sto facendo veramente bene. Domani metto gli sportelli in una parte di piano, l'ho già fatto. Non è mai come lo fai tu. Lo so, lo vendono, forse qua avrò speso qualche euro in meno, qualche euro in più, ma non me ne frega niente. Ho speso qualche cosa in più perché ho comprato la troncatrice a legno, ma mi rimane e mi serve per tagliare del legno. Avete la vostra a mano? Poi in campagna la metti da parte, caro dice Miradrati, non è come in casa che ti pesa il fatto che ci sia roba in più, capito? Appunto, no, poi in campagna faccio di tutto. E viene a suscitare qualcosa, metti in veranda, te la costruisce, te la fai, c'è capito? No? Tagli pizza a misura. Non ho delle attrezzature neanche troppa, guarda. E niente, tornando poi a Baracchini, giustamente, se trovo un baracchino sirio, ma non per altro, perché mi piace, diciamo, la bellezza che ha l'apparato, sia il 140 che il 440, tanto per averlo, basta, ma non mi frega più di tanto, tanto visto che di frequenza ci sto entrando poco e nulla, cioè ho molto da fare qua in campagna, quando mi voglio rilassare, un pochettino, una mezz'oretta, lo accendo, dai, fare con gli amici, o fare qualche DX, quando ce n'è, e non mi interessa più di tanto. Chiede a Claudio che lui ha entrato con i 140, con la linea Kenwood, Claudio, conosce un po' di gente, capito? Quindi magari c'è qualcuno che lo sta vendendo e te lo dice, e poi ti fa prendere quello buono, capito? Non lo so, sono così però a comprarlo qua a Sassari, non lo so. Ma se lo prendi da qualche radioamatore va bene. Rubili da un radioamatore, ma se rubili da CB si muovono le mani, caccia vite e questo e quella. No, CB neanche a parlarne, ho già, poi, assolutamente. Tu pensa del Galaxy, per esempio, quanta gente qua, là, ne ho sentito, ne ho visto certe cose in frequenza, ho visto su Facebook, no, ho visto cose che non dovevo vedere, di 5.000 sassari, quindi lasciamo perdere già. Ho detto, telefono a mio cugino, telefono a Milano, me l'ha procurato lui, sono troppo contento, basta, non mi interessa altro. Infatti, vai, dai, speriamo che vada bene, l'ha provato. Perfetto, gliel'ho fatto vedere, c'ha frequentimetro, sì, manda mi sembra. E quindi amici, e fede, quindi appunto. Capagala, va bene allora, dai. Virus. Ma non ne hanno molti di difetti di Saturnecco, eh. Il modulatore difetta un po', il modulatore ti parte la resistenza, ma una gattata, costa 25 centesimi, mi pare. Sì, ma ho questo già. C'è la potenza pure che mette, non so se il Mac che io ormai ho preso un po' quanto al coso, e metti il microfono per amplificato a manetta, io ti spacchi qualcosa. No, infatti non bisogna mettere la manetta ai microfoni, perché sennò ti fa partire la resistenza. Vabbè. Io questo qui l'ho abbassato, si tratta uguale. Ora. No, con l'eco poi troppo, dai, cavolo. Vedi così, fate così, fischiate, dite tutto quello che avete, almeno bene c'è questo mal tutto. E perché? Io ho anche un bazooka qua, una bomba atomica. E perché? Il microfono amplificato adesso si può tenere, non è che non si possa tenere in attacco. Vabbè, già ci siamo compresi, già. Vabbè. che paga andare Torino, quando arriva me lo fai sentire. Niente, io moto non ne ho preso, mi prendo sulla macchinetta, contanti. La macchinetta fino alla trama che mi dura, perché poi la trama la compro nuova di secca, capite, la macchina, che va di pensione, quindi. E quindi adesso ho una macchinetta per spendere anche 3-4 mila euro contanti subito, se la trovo la prendo. E che macchina ti vuoi prendere? Una macchina piccola cilindrata, basta con le macchine grosse cilindrata. 1.8 tu mi dice che c'ho, mi ha rotto le palle, basta, ho troppi soldi ci ho messo sopra, non le voglio più sapere. Infatti, paghi un po' di bollo, cazzo, 3 euro di bollo io fa. Appunto, è assicurazione, quella e quell'altro, no, ogni peso questo bene, dirà. Ci ho speso già 5.000 euro sopra, basta, finito. Ho detto, il giorno si ferma, tra rotoreggio e buonanotte. C'è anche un'amica mia, se per quello mi vuole dare una 600 in ottime condizioni, ma per me, perché siamo amici, amici proprio, una cantata me la vuole dare. Lei si è preso la panna nuova e ha detto, guarda, mettimela a parte, perché almeno un altro anno già me la fa con la 600, anche se piccolina non mi frega niente. Ma è strano, perché tu eri quello che ti faceva correre in macchina. ma quando ero più giovane, adesso non te ne sa più capito. Avevo un po' sul capo, così. Avevo un po' sul capo, infatti anche la moto sono stato contentissimo, quando mi ha detto allora lascia stare, certo, ti dire la moto, non me ne appunti più nulla. Infatti, c'è stata una scusa proprio per dire di no. No, io la moto l'ho data, l'ho venduta da poco. Ma perché troppa gente stava morendo, non sono molti amici e cose, mamma mia. Lui, non ci vogliamo manco pensare. E niente, no, l'ho venduta e basta. No, ho dato un taglio, sono contento che ne sono uscito vivo, là. Ma tu non c'avevi lo scooterone? Perché io ho visto una foto tua con lo scooterone. Suzuki 400. E quello scooterone era tuo allora? Sì, lo scooterone era un Suzuki 400. Ah, ho capito. Anche il T-Max è venuto dalla Yamaha. Ma il Suzuki secondo me come estetica è migliore. Poi come motoristica magari c'ha una ciclica migliore del T-Max. E quindi niente, macchina è buona. La macchina mi sei a truppo. Oh, yeah. Ma sei già in pensione giustamente. No, ancora non più. Fra 2 anni vado in pensione. Il cavolo. Sono un'aspettativa non retribuita. E allora ti lascio la stecca, perché io l'altro anno sono già in pensione. Ma niente, vuol dire, se l'ultima visita che faccio, forse che mi approvino, e devo fare l'ultima visita di validità, speriamo che mi approvino quella fissa e buonanotte. Io ho già una pensione che sto prendendo, quindi più sto lavorando, io ce la sto troppo bene, guarda. E mica non ti succede come ti successo a me. Ma veramente, io ho 75% di validità, mi ho detto tutto. Quanto? 75%. E io ti batto, io ce l'ho 80. Vabbè, a me mi stanno dando 825 euro al mese puliti. Sono già 6 anni che adesso prendo, 7 anni. Sommando quelli del lavoro non vai al di fuori del reddito. A me praticamente sommando quelli che prendevo la pensione più quelli del lavoro, accumulati i redditi e praticamente mi hanno fatto pagare per 3 mesi 900 euro, non ti dico male, te lo faccio vedere se non ci credi. Per 3 mesi ho pagato 900 euro per restituirli a loro e un mese mi hanno preso tutto lo stipendio. Sto pagando le mie tasse giustamente già, io arrivo a 33.000 euro lordi all'anno. Ho capito, Tony, paghi le tasse, ti credi che non li pago, io facevo 7.30 sempre, non è che non le pagavo le tasse, poi le trattenute me le fanno dalla ditta anche. Però il fatto è che io ho superato il reddito, mi capisci cosa ti voglio dire? Allora, io ogni anno faccio il CUDU, ne faccio due giustamente, uno della pensione e uno del lavoro. E giustamente quello che devo pagare pago, capito? Ogni anno, quindi a me, basta. Dalla macchina mia sera che mi ricava. Ecco, bravo. A me qualcosa in più già rimane, dai, già, non sto male. No, quello no. Anche io stavo bene fino a poco tempo fa. Poi giustamente quando vado in pensione mi danno sia quella che sto prendendo adesso, ma unificata a quello della vecchiaia. Esatto, anche per me è così. Non mi posso lamentare, dai, vivo tranquillo. gallina. Bravo. Infatti stamattina sono andato a prendere qualche calzata che mi serviva, lì a Brico, ho visto la stroccatrice, al volo, ho preso e comprato. Così vuole. Quando serve una cosa, se non ti serve un cosa, ma se ti esegui, fai bene che la prendi. Intanto, ma io ho visto che sei tu malato, intanto la vita è una, bisogna godersi. Certo, a mio figlio ho detto, guarda, dice, ma cosa te ne fai, serve sempre campagna, tagliare questo, tagliare questo. Un domani che io non ci sarò più, te lo prendi su tutto, anzi, quando non ce la farò più a usare certi attrezzi, ti invito a tutto. Vabbè, quanti anni c'ha tuo figlio adesso? 41. Sì, grazie, è poco grande. Lo facevo così grande. Io compio 66 adesso. Vabbè, aspettate. Sposato? Vive, convive con la compagna. Ah, ecco. Cava, manda me. Ma i figli non li avevi altri, vero? Sì, una figlia che ha 4 anni. Ah, ecco. Anche una figlia. E come me c'è una coppia. La mia sono più piccoli. Ma noi la ne ha 28 e Marco ne ha compiuto 19 ieri. E come tu hai cambiato casa? Tu pensa. Ma ti trovi più meglio di dove abiti adesso? Sì, mi trovo bene, tranquillo. Mi trovo bene. Vabbè, casa di mamma era sacro cuore. Poi sono venuto qua, quando mi sono sposato. E io non so dove abita il sacro cuore, se no che è venuto casa tua. E mi è piantato anche l'antenna, tu non ti la metti mai uscì, però. Mi è piantato la Grand Prix, quella con due radiali 2,75 m. L'hai messo le staffe, me le murate, poi sei tornato e hai messo l'antenna. E l'abbiamo piantata. Sì, quanto tempo è passato già. Ho tante cose che ho per il cervello, guarda, perché sono mezzo fuso, e corsi che fai, aggiornamenti, e quello, e quell'altro, tu pensi dove sta lavoro, sono già 22 anni, dai, giuricato, abbiamo intanto una cerimonia nuova, oh. E via. Ma scopo, tu, un certo Marco Carta, lo conosci che lavora lì a Multiservi? Marco Carta? No, c'era un Carta, di solito sono un licenziato. Marco, no, c'è un Marco su Sanillo. Aspetta, ma dove lavora? Noi abbiamo tanti amici, abbiamo sede, diciamo, gestione calore, dove riconosce, ma non c'è Marco, questo caso. Negli impianti ci siamo noi e gestione calore. Dimmi se edilizia, dimmi se disinfestazione, dimmi se spazi grigi, dimmi se sulle strade, non lo so. Manutenzione proprio in provincia, papà. Manutenzione in provincia non esiste. Noi andiamo a fare le manutenzioni in provincia, ma non uno che è fisso in provincia della... No, non esiste. E vabbè, te l'ho chiesto perché mi hanno detto che c'era il piccardo, se sapevi la storia. No, vabbè, comunque, era un mio amico e poi ho trovato un amico in comune, ma te non hai saputo di Marco, si è piccato alla Borbo. Uno si è piccato tantissimo tempo fa, e quello è Massimiliano però. No, si chiamava Marco Carta. No. Non esiste proprio. Yeah. Ah, sì, un attimo sta a me, il telefono. Mi sposto anch'io, devo andare in bagno. C'è avanti. Avanti su 10, c'è qualcuno? Ottoni. C'è qualcuno su 10, lo saluto, che ero sul 20 che stavo parlando con Tino. Buona cena a tutti, a dopo se coincide.